GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Rissa tra italiani e stranieri in pieno centro a Udine davanti a un kebab di via Pellicerie. Un uomo è rimasto gravemente ferito nel tentativo di fermare la colluttazione. Dopo lo sgombero del Silos di Trieste e a Camposacro, in comune di a Prosecco, sull'Altopiano, la struttura destinata all'accoglienza dei migranti, ma per ora non ci sono tracce di lavori di allestimento. La preoccupazione dei residenti. Circolazione dei treni sospesa tra Porto Gruaro e La Tisana, ritardi e cancellazioni su alta velocità intercity e regionali per il ritrovamento di una persona deceduta nei pressi dei binari. Lo Stato paga in ritardo 50 miliardi di debiti ai fornitori, ma non il comune di Pordenone, tra le amministrazioni pubbliche più virtuose, con un anticipo del saldo di oltre 21 giorni. Calano i lavoratori domestici in Friuli Venezia Giulia, meno 10% negli ultimi due anni. In regione la maggior incidenza di badanti, Romania, Ucraina e Georgia, i paesi più rappresentati, a dirlo un'indagine IRES su dati INPS. Aspettando quella vera prevista per domani, in Piazza Unità a Trieste c'è intanto Bora Amata, l'evento con 130 girandole per tutto il weekend, con giochi per bambini e spettacolo degli aquiloni. Daniel Oren e Beatrice Venezzi tra i protagonisti della prossima stagione lirica e di balletto del Teatro Verdi di Trieste, inaugurazione l'8 novembre con la Traviata. Grande risultato per la scherma italiana agli europei di Basilea, oro nella spada femminile e bronzo nel fioretto maschile a squadre. A trascinare la squadra le friulane Mara Navarria e Giulia Rizzi. Buongiorno da Daniele Lettige ed Elisabetta Staccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In apertura lo avete sentito, un grave fatto di cronaca avvenuto questa notte in pieno centro a Udine. Una rissa è scoppiata davanti a un kebab di via Pellicerie. Una delle persone coinvolte, cadendo a terra, ha sbattuto violentemente la testa. Le sue condizioni sono gravi. Il servizio non è ancora pronto, andiamo avanti con il nostro giornale radio. Dopo lo sgombero del Silos è a Camposacro, a Prosecco, la struttura destinata all'accoglienza dei migranti, ma per ora non ci sono tracce di lavori di allestimento. La preoccupazione dei residenti. Nel comprensorio scout di Camposacro, destinato ad accogliere un numero ancora maggiore di migranti ora che il silos è stato sgomberato, nessuno vuole parlare. Gli scout che se ne occupano da anni e che da anni cercano di aiutare anche i richiedenti asilo devono sloggiare nei prossimi giorni. In quattro perderanno il lavoro. Ci invitano ad uscire dal cortile, dal quale risulta evidente però che nessun lavoro è stato ancora iniziato, a partire dalle fognature che dovranno essere dimensionate per altri numeri. Intanto i residenti del paese di Sgonico e in particolare del borgo di Camposacro cominciano a preoccuparsi. La situazione è paradossale, i 150 residenti del borgo si attraversano la strada, passano dal loro comune a quello di Trieste, dove si trova la struttura di accoglienza. Hanno chiesto alla loro sindaca di intervenire e di contattare il comune di Trieste. Temono l'aumento degli ospiti che, dicono, si sono ritrovati a volte anche in giardino e già ora lamentano gli autobus diretti a Trieste sovraffollati. Il centro di accoglienza di Camposacro ora ha una trentina di posti che dovrebbero arrivare ad 80 con i nuovi lavori. A questi dovrebbero essere aggiunti dei moduli abitativi mobili. La paura dei residenti è che si possa arrivare ai numeri dei tempi della pandemia, quando all'interno, dicono, c'erano anche 300 persone, 300 in un borgo di 150. Camposacro, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora sentiamo quindi il servizio sulla rissa scoppiata questa notte davanti a un kebab a Udine. È ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravissime l'uomo di oltre 50 anni che nella notte ha subito un'aggressione da parte di un gruppo di giovani in pieno centro a Udine, in via Pellicerie. Dopo aver incassato un pugno, la vittima è caduta a terra sbattendo violentemente la testa. Ha perso subito i sensi l'uomo ed è andato in arresto cardiaco. Rianimato dall'ambulanza accorsa sul posto, è stato trasportato all'ospedale di Udine con fratture craniche multiple. La questura di Udine ha arrestato 5 giovani di circa 20-25 anni ritenuti responsabili della rissa ha informato il procuratore capo Massimo Lia. Ci sarebbero anche sospetti su chi potrebbe aver scagliato il pugno. Sono state già raccolte alcune testimonianze e acquisiti i primi video. Ragioni e dinamica della violenza sono ancora in fase di accertamento, ma da una prima ricostruzione pare che il signore fosse intervenuto in un altro punto del centro all'interno di un locale per redarguire ragazzi e invitarli ad abbassare la voce ed evitare schiamazzi. La ramanzina è stata poco apprezzata dai giovani, visibilmente sotto l'effetto dell'alcol. La discussione è proseguita all'esterno ed è terminata davanti a un venditore di kebab in via Pellicerie. La vittima sarebbe di origine straniera ma residente in Friuli da oltre 20 anni. Tra gli arrestati ci sono sia italiani sia stranieri. Data la gravità dei fatti, le indagini proseguono a ritmo serrato e sarà presto inviata un'informativa alla procura che potrà così formulare l'eventuale richiesta di convalida dell'arresto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è appena arrivata in redazione la notizia che è ripresa regolarmente poco dopo le 11.30, dopo essere stata fortemente rallentata dalle 7.30 del mattino, la circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia, dove nel tratto tra Latisana e Portogruaro è stato ritrovata nelle vicinanze dei binari il cadavere di una persona deceduta. L'intervento delle forze dell'ordine ha provocato ritardi e cancellazioni di treni, tra cui il Frecciarossa Trieste-Torino, che ha maturato un ritardo di 2 ore e 30 minuti, e altre 3 frecce e un treno italo con ritardi fino a 2 ore. Forti limitazioni anche ai treni regionali, con alcuni convogli cancellati e sostituiti con pullman. Diamo uno sguardo al meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 25,5 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 25 gradi, a Gorizia 28,5 gradi, a Pordenone 27,5, a Udine 27, a Tolmezzo 25, a Tarvisio e Forni di Sopra 23,5, a Sappada 21, a Piancavallo 17,5, sul Monte Zoncolan 16,5, sul Monte Lussari 15, a Lignano 27 gradi, a Grado 24,5, e qui la temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi. Le previsioni dell'ARPA per oggi pomeriggio: su pianura e costa cielo sereno, poco nuvoloso, brezza dal mare anche sostenuta sulla costa. Sui monti cielo variabile con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco. Nella notte peggioramento con piogge, specie a ovest. Nel 2023 in Friuli Venezia Giulia il numero di lavoratori domestici regolarmente registrati è sceso sotto quota 20.000, attestandosi a 19.735, in calo del 10% rispetto a 2 anni prima, quando erano oltre 2.200 in più. A dirlo è l'IRES regionale, che ha rielaborato dati INPS. Nel periodo pandemico, infatti, si era verificato uno sviluppo dell'occupazione regolare in questo settore per due motivi. Prima, il lockdown, che aveva reso necessario un contratto regolare per consentire alle persone di spostarsi liberamente per lavoro. Poi il decreto rilancio del 2020, che ha previsto l'emersione di rapporti irregolari. Secondo questo rapporto, in Friuli Venezia Giulia i lavoratori domestici sono cresciuti di circa 3.500 unità in 10 anni, con un più 22% a causa dell'invecchiamento della popolazione. Per il 76% dei casi il personale è impegnato nell'assistenza alle persone. Si tratta quasi esclusivamente di donne, sono il 95%, di cui 7 su 10 straniere, anche se nell'ultimo decennio è cresciuta la componente italiana. I principali paesi di provenienza sono Romania, Ucraina e Georgia. La politica non si occupa della felicità pubblica. Su questo tema un convegno organizzato dalle liste civiche che hanno condotto Alberto Felice De Toni a diventare sindaco di Udine. Mentre le amministrazioni pubbliche del Molise hanno accumulato in media più di 200 giorni di ritardo nel saldare le fatture con i propri fornitori, record negativo in Italia, in Friuli Venezia Giulia la pubblica amministrazione si è rivelata molto veloce nei pagamenti, con tempi inferiori ai limiti stabiliti per legge. Nel 2023 il pagamento in media è arrivato in anticipo sulla scadenza di quasi 19 giorni, nel primo trimestre di quest'anno di circa 16 giorni. Nessuna delle 11 realtà monitorate dall'ufficio studi della CGA di Mestre, autrice dello studio in questione, ha pagato i fornitori in ritardo. Stiamo parlando delle fatture riconducibili ad acquisti, consumi, forniture, manutenzione, formazione del personale e spese energetiche. L'amministrazione più tempestiva è il comune di Pordenone, che liquida i pagamenti con un anticipo di 21,84 giorni. Segue la regione, con un anticipo di 18,71 giorni. Tra le aziende sanitarie, nel 2023 il più rapido a liquidare i fornitori è stato il centro di riferimento oncologico di Aviano, che l'ha fatto con 32,33 giorni di anticipo. Segue l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che ha saldato i propri fornitori 24,34 giorni prima della scadenza contrattuale. C'è però un ma. La pubblica amministrazione ha debiti commerciali per circa 50 miliardi di euro, di cui almeno 1,5 miliardi sarebbero in capo alle aziende del Friuli Venezia Giulia. E questo succede perché molte aziende della regione lavorano anche per grandi aziende pubbliche, ministeri, regioni o enti locali di altri territori, che nei pagamenti accumulano lunghi ritardi. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Il servizio era relativo ai pagamenti in ritardo da parte dello Stato, ma non di Pordenone, tra le amministrazioni pubbliche considerate più virtuose, con un anticipo del saldo di oltre 21 giorni. E ora il servizio sul convegno sulla politica che non si occupa della felicità pubblica. È possibile una felicità pubblica? Se ne è parlato in un incontro organizzato dalla Federazione Quadrifoglio, l'insieme di partiti e realtà civiche che hanno portato Alberto Felice De Toni a diventare l'Happy Syndic di Udine. Il parametro che ha un impatto maggiore è la condivisione di relazioni, spiega chi insegna l'unico corso in Italia di economia della felicità, e la qualità delle relazioni è molto sensibile alle decisioni politiche. Come dice Stefano Bartolini, professore di economia della felicità a Siena, oggi i bambini crescono nelle case perché le città sono diventate pericolose a causa delle automobili, però non ce l'ha ordinato il dottore di invadere la città di automobili, è una decisione politica che per fortuna molte amministrazioni stanno rivedendo, le città si stanno riempiendo di zone pedonali e spazi verdi e forse un giorno rivedremo i bambini giocare all'aperto. Davvero la politica oggi è, come auspicava un papa, la forma più alta di carità? Se lo è chiesto, aprendo i lavori, Don Paolo Iannaccone, direttore del Centro Balducci, che ha ospitato il convegno. Leonardo Becchetti, professore di economia politica a Tor Vergata, parla di generatività come stella polare per l'amministrazione pubblica. È come se noi avessimo un contatore dentro di noi, spiega, che ci dice se quello che stiamo facendo in quel momento è utile a qualcun altro, inutile o dannoso. Nella misura in cui è utile, siamo felici, nella misura in cui è inutile e dannoso, siamo invece infelici. Chiediamo al sindaco De Toni come si fa a coniugare temi come la percezione di sicurezza, su cui si vincono o perdono le elezioni, con quello che è stato definito il mondo delle grandi idee. La sua risposta è che noi lavoreremo per superare le infelicità in tutti gli ambiti, in quello della sicurezza, degli asilo, del verde pubblico, della rigenerazione urbana. Noi abbiamo come filo rosso dell'azione la felicità, ha concluso, ma sappiamo che la differenza la si fa sulle azioni. Pozzolo del Friuli, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli, è stata presentata la prossima stagione lirica e di balletto del Teatro Verdi di Trieste. Si parte l'8 novembre con la Traviata. Aprite con una Traviata, c'è un Rigoletto con Oren, un altro Mozart con Beatrice Venezzi, il Trittico di Puccini in un nuovo allestimento, l'Olandese di Wagner per la regia di Brockhaus e di nuovo Oren con la Lucia di Donizetti più Candide di Bernstein. E il Don Chisciotte come titolo di balletto è una scelta di 8 titoli che naviga in territori più frequentati rispetto a quelli della stagione appena completata. Beh sì, abbiamo scelto 3 grandi titoli di repertorio accanto ad opere un po' meno frequentate. Abbiamo la fortuna di poter avere da noi delle star della lirica nei ruoli che le hanno consacrate, Jessica Pratt ad esempio in Lucia. Avremo l'opportunità di ascoltare un fenomeno nel ruolo di Rigoletto, che è il baritono mongolo Amartushvin Ekbat, che è un grande interprete del ruolo, e ritornerà Roberto Frontali come Germont. Insomma, abbiamo Albert Domen che ricomparirà al Teatro Verdi, è stato un interprete celebre di questo palcoscenico nell'Olandese Volante. Da sottolineare che 6 spettacoli su 8 sono produzioni o coproduzioni del teatro. Sì, questa è una cifra nuova di questa stagione che abbiamo voluto aggiungere all'esperienza del passato, deriva anche da un consolidamento, una solidità del bilancio che approveremo a breve e una valorizzazione delle nostre compagini tecniche oltre che di quelle artistiche che fanno un mestiere artigianale molto qualificato. Presentata anche la doppia stagione sinfonica, il doppio filo che la lega è quello dei solisti e direttori di alto livello da una parte e quello di un repertorio un po' più spostato verso il contemporaneo dall'altra. Sì, abbiamo voluto rappresentare degli autori nuovi o dei pezzi mai eseguiti, uno fra tutti il concerto di Busoni per violino orchestra, solisti di grande importanza che ritornano volentieri da noi, ne cito alcuni: Krylov, che inaugurerà la stagione, e il giovane Pagano insieme a Milenkovic, ma lo stesso Gibboni, che è vincitore del premio Paganini, già ascoltato a Trieste nel concerto di Paganini, quindi direi che questa è la linea. Trieste, Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. L'intervista era Giuliano Polo, sovrintendente del Teatro Verdi di Trieste. Aspettando quella vera, prevista per domani, in Piazza Unità a Trieste c'è intanto Boramata, l'evento con 130 girandole per tutto il weekend e poi giochi per bambini e spettacolo degli aquiloni. Solo lievi refoli di bora, ma quel che basta per smuovere le 130 girandole verdi in Piazza Unità. E dove proprio il vento non ce la fa, trova tanti piccoli aiutanti pronti a dare una mano alla magia della piazza che celebra il simbolo della città e insieme la grande foresta di Tarvisio. Seconda giornata oggi per Boramata. Quest'anno Boramata, alla nona edizione, spiega Rino Lombardi del Museo della Bora di Trieste, è un evento giocoso e ventoso. C'è l'aspetto del gioco, quindi giochi all'aria aperta al giardino pubblico, e poi c'è questo gemellaggio con Tarvisio. C'è una scultura di vento, un eolo in legno creato da Ennio Velusek, e poi le girandole verdi, che in qualche modo sono un omaggio alla foresta verde di Tarvisio. Al giardino pubblico in mattinata i giochi da tavolo di Diego Manna e il laboratorio giochi di Carlo Carzan, che accompagna i bimbi alla ricerca della parola più ventosa, con risultati decisamente inattesi. Hanno connesso la bora a un grande drago, per esempio, spiega, come all'uguaglianza che crea con altri venti. Nel pomeriggio il laboratorio di aquiloni, e aquiloni voleranno poi domani mattina in Piazza Unità. Quanto alle girandole realizzate dagli studenti del primo anno del percorso di istruzione e formazione professionale per addetto alle lavorazioni edili, dopo i 3 giorni in piazza saranno disponibili per tutti a partire dalle 10:30 di domani, a fronte di un'offerta libera. I fondi raccolti saranno destinati ad Astado DV, che gestisce a Opicina un rifugio per animali abbandonati. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport scherma, serata da incorniciare quella di ieri agli europei di Basilea, oro nella spada femminile e bronzo nel fioretto maschile, entrambi a squadre. Le friulane Mara Navarria e Giulia Rizzi hanno battuto l'Ungheria riportando la spada femminile a squadre sul tetto d'Europa dopo 17 anni. Il trono europeo della spada femminile è di nuovo colorato d'azzurro grazie a Rossella Fiammingo, Alberta Santuccio, due siciliane insieme a due friulane, ovvero Mara Navarria e Giulia Rizzi. A Basilea la medaglia d'oro, che mancava da 17 anni nella bacheca dell'Italia, è arrivata grazie al successo in finale sull'Ungheria. 38-31 il risultato. Fiammingo, Santuccio e Navarria hanno tenuto il punteggio sotto controllo grazie alla loro grande esperienza. Poi con Giulia Rizzi la prova che ha rotto l'equilibrio con l'11-6 contro Esther Muhari. Rizzi, che ha 35 anni, quest'anno ha conquistato 2 successi e un secondo posto in Coppa del Mondo, che hanno portato la spadista udinese al 6° posto del ranking mondiale. Per conquistare la finale le azzurre avevano battuto facilmente Israele e sofferto contro la Francia, superata per una sola stoccata. Un oro che proietta la squadra italiana della spada guidata da Dario Chiadò al 1° posto del ranking mondiale, ad un mese dalle Olimpiadi a Parigi. Sarà l'ultima stoccata prima del ritiro per Mara Navarria, che ha quasi 39 anni e è stata esclusa dalla gara individuale. Tesserata con l'esercito, nella sua carriera l'atleta di Carlino ha vinto un bronzo olimpico, un oro, 2 argenti e 4 bronzi mondiali, 3 bronzi europei, 12 ori e 12 argenti in Coppa del Mondo e 3 bronzi. È stata 5 volte campionessa italiana. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Il basket, le strade della Pallacanestro Trieste e di Ariel Figlioi si separano dopo una stagione esaltante in cui il Gaucho, come è stato soprannominato, è stato uno dei protagonisti del ritorno dei biancorossi in Serie A. Attraverso le parole del general manager Michael Arcieri, la società ha reso omaggio al giocatore e all'uomo che ha vestito quest'anno la canotta numero 5. Ariel, ha detto Arcieri, possiede tutte le caratteristiche di un campione ed è un'ispirazione per chiunque ami e giochi a questo sport. Domani mattina, dopo il GR delle 8:30, in onda la nostra trasmissione radiofonica Vita nei Campi. Sentiamo un'anticipazione. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura alla scuola di montagna di Barcis, dove si parla di agricoltura e pastorizia. A seguire la storia di Angelo Floramo ci porta tra i ricordi dei ragazzi nelle lunghe giornate d'estate passate in campagna. Piccolo excursus lessicale tra le varietà e varianti delle ciliegie che forse non tutti conoscono. E ancora, nella rubrica dei sommelier, le birre a bassa fermentazione, le più consumate al mondo. Per lo spazio che dedichiamo alla conservazione dei cibi, un metodo semplice per serbare i profumi e i sapori delle erbe officinali. E poi tra i fiori prediletti dalle farfalle c'è anche la pentas lanceolata, più comunemente conosciuta come stella egiziana. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. La mente svelata, il ruolo della meditazione secondo yoga e scienza è la conferenza organizzata dall'Università di Udine nell'ambito dello Yoga Day. Appuntamento a Udine nella sede universitaria di Palazzo Garzolini di Toppo Wasserman in via Gemona, oggi alle 18. Tra i relatori Cristiano Crescentini, docente di psicologia clinica all'Università di Udine, che ci spiega cos'è la psicologia positiva. La psicologia positiva è una delle branche della psicologia in più rapida evoluzione. Si compone di una serie di studi sia teorici che applicativi che riguardano un po' le determinanti del benessere, del funzionamento positivo degli individui, ma anche dei gruppi e delle comunità. Si cerca perciò con la psicologia positiva di dare enfasi, risalto a quelli che potremmo definire, tra virgolette, sintomi del benessere o sintomi della felicità. Che cosa aiuta le persone nella vita quotidiana a contattare maggiore salute psicologica, maggiore benessere. Quindi la psicologia positiva si occupa non solo della natura, delle forme, del disagio, ma pone particolare attenzione ai lati positivi, al funzionamento positivo, quindi emozioni positive, potenzialità, virtù degli individui. E si cerca di naturalmente anche lavorare per promuovere questi aspetti. Immagino che ci siano dei comportamenti che vengono privilegiati, quali potrebbero essere nella vita di tutti i giorni, per esempio? Dunque, ci sono vari aspetti che potrebbero concorrere a far sì che una persona naturalmente mostri o contatti maggiore benessere. Un buon stile di vita, uno stile di vita sano, attivo, ma senz'altro dal punto di vista psicologico aspetti importanti sono quelli del darsi obiettivi, esperire un senso di coinvolgimento relativamente a quello che si fa e che si vuole raggiungere, cercare di valorizzare i propri talenti, cercare di realizzare le proprie potenzialità, le proprie virtù e oltre a questo naturalmente cercare anche di contattare emozioni piacevoli, positive, che diano un senso di soddisfazione, di appagamento. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed si chiude così il nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Giampaolo Zucchi e Roberto Cavallari. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.